Incontri di Gianfranco Fabi. Note inconfondibili dell'Alleluia di Handel. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica e buona Pasqua. Quanti ci ascoltano, buongiorno e buona Pasqua, Don Gino Rigordi. Buona Pasqua anche a tutte le amiche e tutti gli amici che si ascoltano. Pomeriggio di Pasqua luminosa. Grazie Don Gino Rigordi, cappellano dell'Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria di Milano, presidente di Comunità Nuova, una onlus che assiste e accoglie i giovani, ma è anche don, quindi è un sacerdote. E si capisce. Da quanti anni è sacerdote, Don Gino? Sono sacerdote da 45 anni, e dire che quando ho finito il seminario, il rettore del seminario, secondo me non sei tanto dato a fare il prete, ma ci sono da 50 anni a momenti, quindi c'è la prova provata. Che... Quindi ci ha trovato bene a fare il prete. Ma sì, in parrocchia un po' meno bene, mi sono accorto che non era tanto il mio posto quello delle liturgie, dei catechismi, delle parrocchie, con tutto il rispetto che si deve avere per queste... per queste vicende, ma a Beccaria sì, mi trovo bene lì. Quanti anni è che è a Beccaria? Com'è? 40 anni, quasi 41, quindi sono, ormai faccio parte del mobilio del Beccaria. Lì. Beh, un nonno per i minorenni del Beccaria. Sono un nonno, ma sono un nonno anche vero, perché io ho anche 3 figli adottivi, non è che li ho fatti per strada, li ho adottati già grandi, e c'ho una nipotina che si chiama Vera, che ha 3 anni e mezzo, quindi che mi chiama nonno. Certo. Nonno, quindi, anche nonno. Ecco, quindi ha iniziato, come ha scelto di fare il sacerdote quando appunto era minorenne probabilmente? No, io avevo già 18 anni, lavoravo, ho cominciato a fare il metalmeccanico, poi ho fatto carriera, facevo qualche contributi, ma poi un po' che ho incrociato un prete molto bravo, fatto Don Tommaso, che mi ha dato l'idea che potevo fare delle cose diverse, che avessero un significato anche educativo ma anche di testimonianza cristiana. Ho continuato a dire, sono andato in seminario a vedere cosa c'era, sono andato 2 o 3 volte, tutte le volte uscivo dicendo in questo posto qui mai metterò piede, assolutamente neanche morto, e poi ci sono stati, sono andato, infatti sono qua. Ecco, per raggiungere, poi per fare quella che è stata la sua vocazione, ha dovuto passare attraverso il seminario, poi entrare, fare anche un po' di pratica in parrocchia, e poi ha deciso di buttarsi sui giovani. Ma è capitato così, perché quando sono stato rimandato a ottobre, dentro a un collegio arcivescovile dove c'erano i ragazzi di famiglie abbienti, diciamo così, e lì ho trovato 120-130 ragazzi dai 14 anni in su. Io ero dedicato alla disciplina e allo studio, lì ho nuotare o affogare, ho imparato a nuotare, e poi lì a Varese c'erano, a quei tempi c'erano distribuiti nelle case occupate, alla stazione, così via, ragazzi italiani che arrivavano dal sud a cercare lavoro, un po' come erano agli inizi gli stranieri che sono arrivati in Italia. E a me non sembrava giusto che questi ragazzi dormissero per strada, fossero così abbandonati. Allora di nascosto, mica tanto, insomma, per il rettore si è accorto, portavo in questo istituto molto bene, in questo collegio molto per bene, dei ragazzi a dormire nelle stanze libere. Tant'è vero che una volta arrivava un cardinale da Roma, perché lì frequentavano questo posto i cardinali, i vescovi, arcivescovi, i ministri, i prefetti e compagnia bella, ha aperto la porta. Lì dentro avevo messo 2 fratelli che si erano lavati i piedi, penso 3 mesi prima, stava per svenire. Il rettore mi ha fatto un cazziatone di quelli, mamma mia. Vabbè, comunque ha proseguito su questa. Ecco, a un tempo si diceva i preti di strada, non definito anche lei un prete di strada, uno che andava sulle strade a cercare le persone, ad accoglierle. Strada, no, dove li trovo? Anche in strada c'è il caso, ma dove li trovo ci sono, e dove se riusciamo da. E poi non è mica difficile stare con i ragazzi, basta non aver paura, non aver fantasie di giudizio, invece aver voglia di parlarsi, di capirsi, e poi dopodiché si va, non è mica difficile stare con i ragazzi. Come è cambiato da 40 anni a questa parte, il mondo giovanile, il mondo con cui lei ha questi contatti, questo aiuto, questa accoglienza? I giovani di 40 anni fa erano molto muscolari, erano dentro un'Italia che correva in avanti verso il progresso, verso i successi, verso il consumo, il più spericolato. Questi avevano trovato strade traverse, perché non riuscendo con i metodi del lavoro, che peraltro allora era il lavoro degli immigrati, era simile al lavoro degli stranieri di prima battuta, camerieri, manovali, sempre lavoro un po' così, poco gratificante, diciamo. Beh, questi ragazzi comunque facevano le loro furti, le loro rapine, ma avevano l'idea di, cioè erano forti, ecco. Poi ci si discuteva e si litigava anche insieme, ma con con gente che aveva un'idea del suo futuro. C'è stato qualche incontro con qualche di questi giovani che l'ha colpito, qualche personalità forte che l'ha o contrastata o accolta in maniera particolare? Qualche... Ah, guarda, io in mente uno che, con il quale proprio non ci siamo trovati per niente, era uno di quelli che c'è il prete, figuriamoci, prete. E quando c'è gente così, io faccio quello che non lo vede più. Non l'ho più visto, e quello mi guardava e non lo vedevo. Era un po' seccato, è uscito senza che avessimo un gran rapporto, poi è rientrato un'altra volta. Stesso sistema, poi è arrivato Giovanotti una volta, e allora c'è questo ragazzo intelligente, ragazzo in gamba, dico: senti, Lorenzo ha bisogno di uno con la chitarra, tu sei suonando la chitarra, puoi dare una mano? Si è sentito molto valorizzato, molto gratificato, è partito una bella amicizia, un diploma, e poi dopo è venuto a casa mia, si è diplomato, poi facoltà di medicina, e vabbè, insomma. Ecco, quindi degli incontri che sono anche gratificanti, appunto. Ma sai, però si possono dire anche delle cose che sono incontri per sì, sono anche incontri, ma noi vediamo che dal Beccaria, come da Bollato, da altri carceri, chi esce dal carcere alla libertà ha una recidiva che vicino all'80%. Chi esce dal carcere accompagnato con un minimo di risorse, certo, anche dal Beccaria, noi siamo al 14% di recidiva, quindi vuol dire che anche i numeri, non dico perché ci sono io, ma perché c'è un sistema. Noi i dati li abbiamo, noi partecipiamo alla sicurezza della città. Qualcuno dice: ma voi qui ve li coccolate, voi questi ragazzi, perché sono cattivi e non li punite? Poi la punizione c'è già, che certo, in carcere non è che si sta bene. Ma aiutarli a cambiare vuol dire anche rilanciare persone che non sono più aggressive. Cioè, fare veramente quel compito vero del carcere e della pena deve essere rieducativa, non deve essere punitiva. Se perde la rieducazione, ha perso il suo significato. Ecco, questa comunità nuova, questo luogo di accoglienza, può spiegare che cos'è? Ma è entrato così: il primo giorno che ero in Beccaria, uno di questi che usciva mi dice: guarda, tu hai detto delle belle parole, ma io stasera esco, non ho casa, e quindi cosa faccio? Apro una spadino, dice, un'auto, mi vedo dentro, speriamo che me la cavo. Io avevo una camera, abitavo in Beccaria, allora io abitavo lì, un'altra camera da letto oltre la mia, dice: beh, vieni qui, ma... E uno, due, tre, dopo un mese e mezzo eravamo in 30, dico: ma Malta non si può, non abbiamo fatto le prime comunità alloggio. Ma fin dall'inizio, dalla prima settimana, io ho ben chiaro che è la squadra che ha forza, non è il protagonista che è forte. Fino alla prima settimana, dopo 15 giorni avevo 7 volontari. Poi pian piano abbiamo cominciato ad assumere persone, perché per fare sto lavoro bisogna anche essere, durare nel tempo. E avere anche una certa professionalità. Avere una professione, durare nel tempo, far tesoro delle esperienze che fai, allora riesci poi a essere un interlocutore serio. Col buon cuore si va anche in paradiso, ma non si fanno strutture un po' complicate come accogliere persone che hanno avuto dei guai, dei problemi con la famiglia, con la propria idea di futuro. Quindi bisogna essere un po'... Il cuore e la professionalità sono necessarie. E questa comunità, allora, è a Milano, accompagna un po' i giovani che escono dal carcere, ma anche una proiezione in Romania. Sì, si chiama Bambini in Romania questa. Sono 300 bambini che abbiamo lì. Noi cerchiamo di non metterli in comunità, finché è possibile tenere in famiglia, facendo la prevenzione negli ospedali. Alle mamme diciamo: tieni il tuo bambino, noi ti accompagniamo a tenere il tuo bambino dal punto di vista economico, educativo e così via. Poi ci sono gli orfani bianchi, sono quelli cui i genitori sono venuti in Spagna, in Francia, in Olanda, spariti, si sono risposati, affidati questi bambini qualche volta ai nonni e qualche volta ai vicini di casa. I vicini di casa li mettono in strada quando i genitori non si vedono più. I nonni ci sono ancora, allora quei nonni cerchiamo di tenere in famiglia, ma andiamo a prendere la mattina, mangiati, lavati, stirati, riportati a casa. E poi le comunità anche, abbiamo ogni anno 100, 120, 150 ragazzi e ragazze che giugno, agosto, Natale, Pasqua vanno su ad animare le vacanze di questi nostri bambini. È un'esperienza straordinaria. Bambini in Romania ha le iscrizioni aperte. Quindi se qualche giovane ci sta sentendo vuole... Dai 16 agli 80, noi se è un professore o un preside corre il rischio di non essere ritenuto idoneo, perché il primo colloquio lo fanno dei ragazzi che sono degli studenti, sono particolarmente severi con gli insegnanti e con i presidi. Quindi ci vuole una motivazione seria per andare a fare un'opera appunto di assistenza, di carità, di accoglienza. Beh, ma si formano, c'è dalla formazione, c'è un accompagnamento con qualcuno che è già esperto nei posti, poi c'è un responsabile della città che vigila che ci sia tutto in regola. Ormai 14 anni che andiamo su, sappiamo come fare, ed è una straordinaria esperienza di umanità. Questi bambini hanno bisogno di affetto, di essere coccolati, di essere accompagnati, straordinari. I nostri ragazzi, coccolati, nutriti, accompagnati, là fanno il contrario e provano di, imparano che sono capaci di fare delle cose bellissime e gli dà un ritorno di valore. E c'è qualcuno che poi sceglie di fare l'educatore, sceglie di intraprendere? Ce ne tanti, cominciano anche a sposarsi tra di loro, se per quello. Ecco, com'è la Romania? Noi abbiamo sempre un'immagine forse un po' vecchia di un paese appunto che ha cercato di liberarsi appunto dalla tradizione un po' comunista, un po' repressiva, però con una grande povertà. Com'è adesso la Romania? È molto povera e poi questa crisi economica là ovviamente pesa di più che non dalle nostre parti, ma per di più è diventato insieme con altri paesi dell'est europeo una specie di paradiso del sesso, che quindi questi di qua vanno di là perché trovano purtroppo anche bambini e bambine che vengono anche poi utilizzati, siccome c'è un abbandono così grosso di bambini e bambine. Questo è un po' una cosa che noi vediamo con molta preoccupazione, anche molto rabbia, perché non si può usare un bambino di 10 anni, 12 anni, 12 anni, non è possibile. Quindi non c'è solo quello, in Romania c'è tanta bravissima gente, cioè, incominciamo a educare anche là dei volontari romeni, che non è una facile, perché il volontariato in Romania si faceva a Natale e Pasqua ed era il castigo che ai cristiani veniva attribuito dal regime, per cui quel giorno lì fate volontariato, cioè lavorate per lo Stato gratis, ed ero, per cui tu parli di volontari che ci si rizzano i capelli. Ecco, quindi mi sembra di capire che anche in Italia ci sono comunque persone che si appassionano a questa attività. Non è... I giovani sono straordinari, noi abbiamo una bellissima gioventù, abbiamo una bella gioventù, ti dici cose serie, ci stanno, ci sono, si entusiasmano. Io di fatti sto delegando, abbiamo un direttore nominato adesso di 25, 26 anni, 27 anni, conto di fra un po' di tempo, o anche una presidente che stia, un presidente che sia possibilmente sotto i 30 anni, perché non soltanto sono responsabili, ma sono anche, hanno genialità che dopo i 70 ci sono un po' meno. Beh, insomma, bisogna dare appunto spazio ai giovani, che però devono anche mettere a frutto l'esperienza degli anziani. Bisogna che ognuno giochi un po' la sua parte. Sì, bisogna esserci e qualche volta restare un po' stupiti, un po' preoccupati, e poi capisci che insomma sono intelligenti, no, questi ragazzi sono in gamba. Ci stiamo avviando alla conclusione della prima parte, poi nella seconda parleremo magari un po' più di questa giornata di Pasqua. Perché io sono anche un prete, un predichetto vorrei farla. Voglio come prete, no? Chiedere un po' malignamente che errore ha fatto nella sua esperienza, qualcosa che non rifarebbe, qualche elemento che possa anche servire appunto come esperienza umana, a ammettere anche i propri errori. Ma io ho fatto dei servizi, delle comunità, delle attività dove, pensando che avrei potuto salvare tutto il mondo senza avere i numeri, le professioni, il tempo, lo spazio, e quindi questo finisce che io sono stato male io, ma forse ho bruciato anche qualche possibilità nelle ragazze che avrei potuto ospitare. Possiamo chiamarlo peccato di superbia forse. Sì. Ma poi mi ha regalato una bella maglietta ultimamente che io intanto mi metto, e dice, l'ho presa e me l'ha regalata in Sardegna, c'è scritto: Dio c'è ma non sei tu, rilassati. Sì, quindi è già una sicurezza. Ogni tanto me la metto, dice, va bene. Questa, ecco, l'essere prete deve ricordarselo in fondo, perché sì. Ecco, una cosa che ha detto il nostro nuovo Papa, sì. Papa Francesco, la Chiesa non deve essere una ONG caritatevole, deve fare anche questo indubbiamente, però deve sempre avere la testimonianza, quello che ha chiamato la confessione Papa Francesco. Ecco, la testimonianza vuol dire non la predica, che è una cosa diversa. La testimonianza è che io faccio le cose che faccio, tutti sanno che sono un prete, se mi capita dico: ma anche Gesù Cristo farebbe così, anche lui ha fatto così. Ma chi è questo Gesù Cristo? Un grande eroe dell'umanità, che ha affermato le sue idee fino in fondo di fronte a delle autorità ostili, per dire che tutti gli uomini erano uguali, che i beni della terra sono per tutti, che i poveri bisogna metterli al centro del proprio interesse, che bisogna praticare la giustizia e così via. L'ha pagata questa sua testimonianza con la vita. Questo è il Dio che io ti presento. E un po' di gente si fa la cresima, poi troviamo qualche sorpresa, qualche volta dico: facciamo la cresima. Certo, ma fai la cresima, dice: ma io veramente non ho fatto il battesimo. Buona idea. Quindi e allora un press, mettiamo lì un paio di padrini, si chiama, qualche volta il padrino magari ha di quei reati appiccicanti, che quel monsignore che è venuto a fare una cresima, poi col battesimo dice: ma quel padrino lì com'è, che ha fatto un reato dei peggiori che ci fossi, sì, non ci... dice: ma sei sicuro che è un padrino adatto? Ha cambiato, guarda, è un padrino adatto, insomma. Però Comunque, ma Gesù Cristo si può però sempre, non predica. condannare il reato ma perdonare il peccatore se possibile. Ecco, no, poi anche rendere c'è anche un'altra parte. I ragazzi che noi, con cui noi siamo, io voglio che imparino che hanno offeso qualcuno, hanno violentato qualcuno, hanno fatto del male a qualcuno, insomma devono anche dire le rapine, un omicidio, figuriamoci, queste robe, che è una cosa brutta che ho fatto, mi pento, come faccio a riparare, se posso riparare chiedo scusa. Questo è altrettanto importante. Se no come si fa a pensare a... Don Gino Rigordi, ci fermiamo un attimo, sentiamo la notizia sul traffico e poi riprendiamo il nostro incontro. Incontri. Ancora con le note dell'Alleluia di Handel, buongiorno, buon pomeriggio e buona Pasqua a quanti ci ascoltano, e buongiorno e buona Pasqua a Don Gino Rigordi. Don Gino Rigordi, abbiamo parlato nella prima parte della sua esperienza, dei suoi incontri e della sua attività, cappellano dell'Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria, presidente responsabile della Onlus Comunità Nuova, che assiste e accoglie i giovani, diciamo protagonista anche di una iniziativa molto forte in Romania che sì, coinvolge molti giovani anche nell'assistenza dei bambini romeni. Ma abbiamo parlato poco della Pasqua, la resurrezione, l'Alleluia di Handel è il simbolo della resurrezione, il simbolo della gioia. Lei ha incontrato... Io ci metto due cose sulla resurrezione. Intanto mi fa piacere pensare che non finisco in una tomba, nella polvere o nel cielo per l'acqua che ho nel mio corpo, ma che c'è la risurrezione, che Gesù Cristo ci ha assicurato che l'anima, la persona che siamo, il corpo non so bene come sarà, ma comunque non muore. Del resto, chi è stato vicino a qualche persona cara, intelligente, capace di amare, forte, a vederla morire, dice, ma non è, dov'è? È possibile che in questo corpo, io ho fatto questa esperienza più di una volta, in questo corpo che ormai tace e va a finire, dov'è quella bella persona? Io credo che la risurrezione ci sia, e questo per me è una qualche preoccupazione, che quando andrò davanti a Dio mi dirà, ma te sei proprio, hai fatto sempre le cose, però insomma si parla di misericordia, sai cosa vuol dire? Che uno... Beh, una delle prime cose che ha detto Papa Francesco è che Dio perdona sempre, il problema è non stancarsi di chiederlo. Ecco, siccome ti prende così come sei, spero che mi prenda così come sono. Io c'ho poi anche un'altra idea, che è questa, per me la risurrezione vuol dire anche che chi ha fatto il bene, chi ha predicato il bene, chi ha testimoniato il bene, che è stato ammazzato da chi non voleva capire, da chi non voleva cambiare, da chi voleva difendere il suo potere, sembra fallito e poi è risorto. E allora io credo che, per l'esperienza che ho, dopo tanti anni, ho parlato con tanti ragazzi che hanno fatto dei reati gravissimi, ma il bene non muore mica, sai? Io lo rivedo sorgere, magari un anno dopo, 10 anni dopo, che vengono a dirti le cose che tu gli hai detto 10 anni prima, pensando di aver assolutamente sprecato il tempo, e poi c'è, e poi vengono fuori. Perché è vero che il bene è più forte del male, è un seme che si mette dentro e poi dopo io ho visto fiorire da tante parti. Poi direi anche un'altra cosa che dico ai miei colleghi preti e a qualcun altro che è depresso: Gesù Cristo è vivo, non è un ricordo del passato, un pensatore illustre che poi ha finito la sua vita. Se è vivo, e lui ci ha detto, io sono con voi quando voi siete con me, certo, non sono con voi quando fate quelli ricchi, quelli potenti, quelli che si esibiscono, quello lì non ci siamo, perché io l'autorità l'ho pensata e l'ha detto, l'ha fatto, come chi lava i piedi ai suoi, ecco. Però perché essere depressi? Perché pensare che questa chiesa affonda? Perché pensare che tu fai una cosa che ti pare giusta, poi dopo non sei incompreso? Ma andiamo avanti lo stesso, no? Ma guarda, io sto depresso mediamente tra i 10 e i 15 minuti, poi mi passa. Non è confacente, ma neanche quella beh, dopo ognuno è quello che è, no? Certo, ognuno ha la sua esperienza, però anche questa, cioè la risurrezione è anche un simbolo della gioia, cioè il fatto che anche la fede cristiana non è una fede del dolore, in cui il dolore c'è indubbiamente, c'è il peccato, ma c'è anche la gioia, c'è anche la redenzione, c'è anche la risurrezione, c'è la possibilità, appunto. Certo, il dolore e la risurrezione vuol dire che il dolore ha una risposta, la morte trova una risposta. È mica una risposta da poco questa qui, che è grande come risposta, che è bella. Il pensare anche di ritrovare tutti i tuoi, il tuo papà, tua mamma, i tuoi amici da un'altra parte, dove, senza tutte le barriere che adesso ci dividono, beh, è una bella prospettiva. Poi io ripeto, continuo a dire, guardate, perché qualcuno dei miei amici anche perché sono un po' depressi, non riusciamo, non si fa, ma vabbè, ma pensiamoci bene, facciamo delle cose che abbiano senso, che siano competenti, che siano sicuramente evangeliche, poi perché non andare avanti? Perché poi la gente cambia anche, è possibile fare delle cose belle. Io credo che si può. Ecco, in questo senso, una delle cose che ha detto appunto Papa Francesco, tra l'altro, come ha accolto questa nomina? Beh, di come una boccata d'ossigeno. Dice, mamma mia, speriamo che non arrivi, per l'amore del cielo, bravissimi cardinali che sono in giro, ma che incominci a mettersi sui vestiti colorati, a fare tutto quel cinema che c'è stato sempre, legato a una storia, a una tradizione. Io dico cinema in maniera poco rispettosa, ma vabbè, per dire, questo qui fa l'essere umano, dice buonasera, buongiorno, e viva Dio, meno male. Però nella Chiesa ci vogliono i teologi, come ci vogliono, sì, anche, certo, i preti di strada, diciamo così. Sì, sì, sì, ma sai, adesso si sa per certo che il Papa non è un semidio, ma è una persona come noi che ha un servizio, che spero. E anche in fondo la testimonianza di Benedetto XVI, sì, accettando umilmente il fatto di non essere più capace, non avere più le forze per farlo, è una dimostrazione che il Papa è un uomo, che ogni persona ha i suoi limiti. Qui ci metterei meno retorica. Quando uno è in un posto e ha un lavoro da fare, arrivato a una certa età, va via, si ammala, va via, perché è Dio che è eterno, gli uomini no. Gli uomini, finché c'è l'energia di testa, di salute, di tempo, buono, dopodiché se uno non ce la fa più, è umano e onesto andar via. Lo star lì, nonostante tutto, secondo me, è, poi non giudichiamo il comportamento, non è un comportamento giusto, insomma, mi pare. O il Papa fa l'icona, allora può essere l'immobile, mezzo morto, o se invece deve governare la Chiesa, e ci deve essere. Ci deve essere, indubbiamente, se no la governano gli altri. Beh, poi così, gli spazi di potere li occupa qualcun altro, ovviamente. Ma torniamo alla testimonianza, al fatto di confessare la propria fede. Che difficoltà trova maggiormente quando deve affiancare un'opera appunto buona, che è quella di accogliere i giovani, di assisterli, di considerarli come persone nonostante i loro errori, i loro delitti, i loro reati? Ecco, qual è la difficoltà nell'aggiungere a questa accoglienza anche la testimonianza della fede? Guarda, per l'accoglienza non ho nessun problema, non sono abituato a prendere la gente qui con me, buonanotte, non mi interessa niente. Riguardo alla testimonianza della fede, è importante che intanto che non faccia le prediche, perché le prediche annoiano sempre, magari ti ascoltano lo stesso, però devono far marzi, sono annoiati. Importante che tu faccia delle cose che siano in conformità con il Vangelo. E quando parli di Gesù Cristo, io gli parlo di Gesù Cristo come di un grande eroe dell'umanità, che aveva delle cose da dire, delle testimonianze da dare, delle persone da difendere, le ha difese davanti alle autorità che non avevano capito, che avevano altri interessi, ci ha lasciato la vita per la sua coerenza, come tutti i grandi eroi dell'umanità. Dio è fatto così, afferma la sua verità e la paga fino in fondo, che è poi una verità di uguaglianza, di fraternità. Io mi rendo conto che ai tempi di Gesù, quando, anche confortati dai profeti, dalla scrittura, gli ebrei erano il popolo di Dio, che a toccare un romano dovevano purificarsi, pregare, fare le penitenze. Cosa qui dice? Tutti uguali. Le donne non erano comprese, anche nel miracolo della moltiplicazione dei pani, 5.000 uomini più le donne e i bambini, che erano quelli che non contavano, perché non avevano struttura, personalità giuridica. Questo dice tutti uguali. Come tutti uguali? La ricchezza era una benedizione di Dio. Questo dice no, la ricchezza è per tutti, dovete condividere, la ricchezza è un grave peccato. Più facile che un cammello passi per la cuna di un angolo, il ricco e il pulone e compagnia bella. Beh, questo qui ha sconvolto questa gente, c'aveva un buon motivo per accomparlo, eh? E tu duri, vai proprio a dirglielo in faccia nel posto del loro potere, che era il Tempio, cioè ti lascia la pelle, lo sapevi che sarebbe successo, è successo, ma poi il bene non muore e Dio lo fa risorgere. Quindi l'attualità, c'è ancora un'attualità nella proposta della figura di Cristo? Sì, della Chiesa poco finora. Uno dei più grossi ostacoli a parlare di cristianesimo è la Chiesa. Gli vengono subito in mente episodi, personaggi antipatici, il potere, il denaro, lì andiamo male. Parlare di Gesù Cristo è tutta un'altra storia. Se poi gliene parli come una tua testimonianza, quello in cui tu credi, non come un discorsetto che hai letto su qualche libro, allora un po' di convincimento arriva. C'è qualche critica verso la Chiesa come istituzione? Figuriamoci. Sì. Potente, ricca, esibizionista, moralista. Effettivamente la Chiesa ha prestato il fianco anche ampiamente alle sue critiche riguardo al potere, riguardo alla ricchezza, riguardo anche a una serie di discorsi fatti che sono rimasti soltanto discorsi. Cioè, se tu parli della famiglia senza dici tutte le storie della sua famiglia, il divorzio, l'aborto, e poi non parli per esempio della bassa capacità di amore, della necessità di educare i giovani al processo che è l'amore, non parli di casa, così che noi viviamo, cioè sta menata che le coppie gay, le coppie di fatto, le preservative, un peniabella, ma la vera perversione a Milano, in Lombardia come da tante parti, è che migliaia di giovani coppie non possono permettersi il lusso di avere un figlio. Ma questo è un diritto assoluto. Noi abbiamo, tutte ste menate, ma dov'è? Cos'è che è importante? Avere un figlio, per esempio, poter fare la famiglia. Quindi avere anche le condizioni di base, la casa. Ma sì, la Chiesa non può fare le grandi leggi. Però non le è compito leggi. Della Chiesa fare... No, non è compito, attenzione, non è compito della Chiesa, però è compito difendere certi diritti. La Chiesa non deve optare per un questa menata qui, votate per un partito, partiti, se voti per un partito prendi tutto il pacchetto, comprese le schifezze che sono in ogni partito. I diritti sì, e per i diritti la Chiesa deve esserci a difendere i diritti. Se dice sono per la famiglia, sono per la casa. Sono per famiglia, sono per un tipo di educazione che addestri questi ragazzi e queste ragazze ad amarsi. Dopodiché si fa il contratto, si fa tutto quello che è dal punto di vista della liturgia. Ma... Quindi la Chiesa deve mirare alla persona nella sua integralità, nei suoi bisogni essenziali, nei suoi bisogni affettivi, nei suoi bisogni di relazione, ma anche nei suoi bisogni spirituali. Poi parlare di meno e fare di più, perché se parli, diciamo, per i giovani, poi gli oratori non li fai funzionare, non ci metti energie, competenze, gente, non ci metti anche preghiera. Anche, guarda, per me è ossigeno l'ora e mezza che la mattina faccio leggendo il Vangelo e dialogando con Gesù Cristo. Guarda, ossigeno, senza quello, perché devi stare. Mia madre diceva: stata cala brocca del Signore. È tradotto in italiano dal dialetto valesino. Al ramo, alla brocca del brocca, nel senso che il ramo del Signore. Che è una sicurezza. E questa forse è la cultura di fondo, la cultura più genuina, più profonda, quella che, mettendo in fondo a sigillo di questa nostra conversazione, lasciamo questa frase: stacca la brocca del Signore. Sta attaccata la brocca del Signore. Cioè stare attaccati alla... Perché lui è bello, è intelligente, interessante, Gesù Cristo. Noi altri siamo dei declinatori di sue parole un po' meno, un po' più arrangiati, ma lui è bello. È un messaggio che è ancora valido, e con questo possiamo dire Bacco, buona Pasqua. Cercate di volervi il più bene possibile, perché è lì è il segreto della gioia e anche della Pasqua, tutto sommato. Grazie mille, grazie a Don Gino Rigoldi. Ricordiamo gli auguri di buona Pasqua, ricordiamo questi auguri per tutti, li facciamo a quanti ci ascoltano. Ringrazio anche Filippo Aureggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, così come le altre puntate di Incontri, così come tutti i programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica e buona Pasqua. Buona Pasqua.